La valle del sonno. Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. Bloom, con i mocassini a brandelli e uno schioppo arrugginito, in punta di piedi, procedendo a tastoni, il volto stranito, ossuto, barbuto, sbirciante attraverso i vetri piombati, urla forte. La vedo, è lei! La prima sera da Matt Dillon! Ma quel vestito, quello verde, e i capelli sono tinti d'oro, e lui, bello, ride beffardo. Quella è tua figlia, nottolone, con uno studente di Ballingar. Millie Bloom, capelli biondi, vestito verde, sandali fini, scialle azzurro che il vento glielo fa proprio girare, si strappa dalle braccia dell'innamorato e chiama, i giovani occhi spalancati dalla meraviglia. Millie, ma no, è il papalino! Ma papalino, come sei diventato vecchio! Bello, cambiato, eh? La nostra scansia, la nostra scrivania dove non si scriveva mai, la poltrona di zia Egarty, le nostre classiche ristampe dei maestri d'un tempo. Un uomo e i suoi amici ci stanno come ragni nel buco. Il riposo del cuculo. E perché no? Quante donne hai avuto di? Andandogli dietro per le strade buie, piedi piatti, a eccitarle coi tuoi grugniti soffocati, eh? Prostituto che non sei altro. Spose immacolate coi pacchi delle spese. Dietro fronte, pane per i tuoi denti, signor sdentato. Bloom. Loro, io. Bello, tagliente. Si vedranno le impronte dei loro pacchi sul tappeto di falso Bruxelles che hai comprato all'asta di Vren. Nelle loro cavalcate con la puledra molla per cercare il pulcione nelle mutande mutileranno la statuetta che ti eri portato a casa sotto la pioggia per il tuo amore dell'arte per l'arte. Violeranno i segreti del tuo cassetto di fondo. Strapperanno le pagine del tuo trattato di astronomia per accenderci le pipe. E sputeranno sul tuo parafuoco d'ottone da 10 scellini comprato da Hampton Lydon. Bloom. 10 scellini e 6. Un'azione da farabutti. Lasciami andare, tornerò, dimostrerò. Una voce. Giura! Bloom stringe i pugni e avanza strisciando con un coltellaccio tra i denti. Bello. Ospite pagante o mantenuto? Troppo tardi. Ti sei rifatto il letto di seconda scelta e gli altri ci si vanno a stendere dentro. Il tuo epitaffio è scritto. Sei completamente a terra. E non te lo scordare, amico bello. Bloom. Giustizia. Tutta l'Irlanda contro una sola persona. Non c'è nessuno che. Si morde il pollice. Bello. Muori, dannato, se hai il minimo senso di pudore o di decoro. Ho in serbo per te del vino vecchio che ti farà far di corsa una gita all'inferno, andata e ritorno. Fa testamento e lascia a noi quei 4 soldi che hai. Se non ne hai, bada bene di procurarteli, sgraffignarli, rubarli. Ti seppelliremo nel cesso esterno, dove marcirai insieme con il vecchio Keck Cohen, mio nipotastro e coniuge, fottuto vecchio procuratore, sodomita e gottoso, con quel collo torto, e i miei altri 10 o 11 mariti. Non mi ricordo neanche più come si chiamano i disgraziati. Tutti asfissiati nello stesso pozzo nero. Scoppia in un'alta risata catarrosa. Ti darei del concime, Mr. Flower. Pigola schernendo. Ciao ciao, Baldi! Ciao ciao, papalino! Bloom si stringe la testa fra le mani. La mia forza di volontà, la memoria, ho peccato, ho soff... piange illacrimevolmente. Bello. Ghigna. Piagnucolone. Lacrime di coccodrillo. Bloom, affranto, impenetrabilmente velato per il sacrificio, singhiozza, faccia a terra. Si sente la campana dei morti, le figure nero velate dei circoncisi, vestite di sacco e coperte di cenere, sono ferme davanti al muro del pianto. M. Shulomovitz, Joseph Goldwater, Moses Herzog, Harris Rosenberg, M. Moisel, J. Citron, Minnie Watchman, P. Mastiansky, Il reverendo Leopold Abramovitz giace, con un dondolio continuo delle braccia, piangono nel pneuma sublum l'apostata. I circoncisi, salmodiando con voce cupa e gutturale nel gettargli addosso frutti del mar morto, non fiori. Shema Israel Adonai Elenu Adonai Echad. Voci sospirose. Così se n'è andato. Ah, sì, davvero. Blum? Mai sentito nominare. No, tipo curioso. Ecco la vedova. Quella è. Ah, sì. Dalla pira del Sati si leva la fiamma del legno resinoso. Il pesante manto funebre di fumo d'incenso la copre tutta e poi si dissolve. Fuori della cornice di quercia, una ninfa dai capelli sciolti, leggermente vestita di colori artistici color tè infuso, scende dalla grotta e, passando sotto le arcate dei tassi che mescolano le loro braccia, incombe su Blum. I tassi, col sussurro del loro fogliame. Sorella, nostra sorella, shh. La ninfa, piano, mortale. Gentilmente, inver pianger non dei. Blum, striscia avanti gelatinosamente sotto i rami, striato di sole, con dignità. Questa posizione. Lo sapevo che si aspettava questo da me, forza dell'abitudine. La ninfa, mortale. Mi hai trovato in cattiva compagnia, ballerinette, gaudenti da strapazzo, pugili, generali popolari, immorali attori di pantomima e maglietta color carne e ballerine di scimmie un po' allegre. La Aurora e Carini, sketch musicale, il successo del secolo. Ero nascosta tra fogli di carta rosa da 4 soldi che puzzavano di olio di rocca. Ero circondata dalle oscenità stantie dei frequentatori di club, dai racconti che turbano i giovani tenerelli, dalla pubblicità di trasparenti, di dadi truccati e di seni falsi, articoli speciali, e perché si porta il cinto con dichiarazione di un signore ernioso. Consigli utili alle coppie. Blum solleva la testa di tartaruga verso il grembo di lei. Ci siamo già conosciuti prima. Su un'altra stella. La ninfa, tristemente. Articoli di gomma. Non si strappano, marca preferita dall'aristocrazia. Busti per uomini. Guariscono dalle convulsioni o si restituisce il denaro. Dichiarazioni non richieste per il meraviglioso pettogeno del professor Waldman. Il mio petto si è sviluppato di 4 pollici in 3 settimane. Riferisce Mrs. Gasröblin con foto. Blum, vuoi dire foto bits? La ninfa. Certo, mi hai portata via, incorniciata in querce e orpello. Mi hai messo sopra il tuo matrimoniale giaciglio. Non visto, in un crepuscolo estivo, mi hai baciato in 4 posti diversi e con amorosa matita mi hai ombreggiato gli occhi, il petto e le pudende. Blum. Le bacia umilmente i lunghi capelli. Le tue curve classiche. Bella e mortale. Ero felice di guardarti, di lodarti. Oh, cosa di bellezza, quasi direi di pregarti. La ninfa, nelle notti buie ho udito la tua lode. Blum, concitato. Sì, vuoi dire che io. Il sonno mette in luce i lati peggiori di ognuno, eccettuati forse i bambini. So benissimo di essere caduto dal letto, o piuttosto mi hanno spinto. Si dice che il ferrochina fa smettere di russare. Per il resto c'è quell'invenzione inglese sulla quale ho ricevuto un opuscolo giorni fa, con l'indirizzo sbagliato. Pretende di procurare uno scappamento senza rumore e inodoro. Sospira. È stato sempre così. Fragilità. Il tuo nome è matrimonio. La ninfa, le dita sulle orecchie. E le parole, poi, non ci sono nel mio dizionario. Blum. Le Le hai capite? hai capite? I tassi. Shh. La ninfa si copre il viso con le mani. Cosa non ho visto in quella camera? Cosa dovranno seguitare a vedere i miei occhi? Blum, scusandosi. Lo so, Biancheria intima sporca, voltata con cura dalla parte sbagliata. Gli anelli sono sciolti. Da Gibilterra via lungomare molto tempo fa. La ninfa china il capo. Peggio, peggio. Bloom riflette con precauzione. Quella commoda antiquata non reggeva il suo peso. Era allora sulle 163 libbre. Aumentò di 9 libbre dopo aver smesso l'allattamento. Il legno era spaccato e mancava la colla. E quell'assurdo oggetto con la greca arancione con un solo manico. Si sente il rumore d'una cascata, allegro scrosciare d'acqua. La cascata. Pula fuca, pula fuca, pula fuca, pula fuca. I tassi, intrecciando i loro rami. Ascolta, mormora. Ha ragione nostra sorella. Siamo cresciuti presso la cascata di pula fuca. Prestammo ombra nei giorni languidi dell'estate. John Wise Nolan. Sullo sfondo, in uniforme di guardia forestale nazionale irlandese, si leva il cappello piumato. Lussureggiate, prestate ombra nei giorni languidi, o voi, alberi d'Irlanda. I tassi, mormorando. Chi venne a Pula Fuca con la gita delle scuole superiori? Chi lasciò i compagni che andavano a caccia di noci per cercare la nostra ombra? Bloom, spaurito. Scuola superiore di Pula? Nemo? Non in pieno possesso delle sue facoltà. Commozione cerebrale. Travolto da un vagone. L'eco. Imbroglione! Bloom, petto sporgente, spalle a bottiglia, imbottite, in un ibrido abito da adolescente. Grigio e nero a righine, troppo stretto per lui, scarpe da tennis bianche, calze orlate coi risvolti e un berretto rosso col distintivo della scuola. Era un adolescente, un ragazzo che cresce. Bastava poco allora. Il ballonzolio di un carrozzino, gli odori misti del guardaroba e del gabinetto per signore, la folla stipata sugli scalini del vecchio Royal, perché a loro piacciono le strizzate. Gli istinti del gregge e il teatro poi coi suoi oscuri effluvi di sesso scatena il vizio, perfino un catalogo di calze per signora. E poi il caldo, c'erano macchie solari quell'estate, chiusura delle scuole e il dolce al rum. Giorni alcioni, i giorni alcioni, studentelle in maglietta sportiva azzurra e bianca e calzoncini, il signorino Donald Turnbull, il signorino Abraham Chatterton. Il signorino Owen Goldberg, il signorino Jack Meredith, il signorino Percy Apjohn si fermano in una radura in mezzo agli alberi e chiamano ad alta voce il signorino Leopold Bloom. I giorni alcioni. Ghiozzo, rivivici un'altra volta! Urrà! Applaudono. Bloom, monellaccio, guanti pesanti, con la sciarpa di mamma, stordito dai colpi innocui delle palle di neve, si sforza di alzarsi. Ancora! Mi sento come se ne avessi 16. Che spasso! Andiamo a suonare tutti i campanelli di Montague Street. Applaude debolmente. Urrà per la scuola media di Dublino! L'eco. Cretino! I tassi, frusciando. Ha ragione nostra sorella. Mormorate. Si sentono baci mormorare in tutto il bosco. Volti di amadriadi fanno capolino di tra i tronchi e fra le foglie e sbocciano violentemente in fiore. Chi profanò la nostra ombra silente? La ninfa, ritrosamente, di tra le dita a ventaglio. Là, all'aperto? I tassi, inchinandosi ondanti. Sorella, sì, e sulla nostra vergine erbetta. La cascata. Pula fuca, fuca, fuca, fuca, fuca.